Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Il numero di valigie che ci portiamo in viaggio e il loro contenuto rappresentano uno specchio della nostra personalità. Sulle pagine del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, Giuseppe Scaraffia mette a confronto alcuni personaggi storici partendo dai diversi modi in cui si preparavano ad affrontare lunghi viaggi. Giusto il necessario, sapete, laggiù non si trova niente. È la foresta vergine, spiegava la più celebre attrice dell'Ottocento, Sarah Bernhardt, in partenza per l'America con 24 valigie di costumi, 550 abiti e 250 paia di scarpe. Quando la polizia inglese fermò Mata Hari, dovette esaminare una cappelliera, 4 bauli, una borsa per la biancheria sporca, un pacco di asciugamani igienici, una valigia contenente 4 ornamenti per capelli, un fermaglio per capelli e vari toupé, un astuccio di cipria, 3 stole di pelliccia, una bottiglia di vernis Mordore Doré e una bottiglia di liquido bianco, una scatola di legno con dentro un servizio da tè cinese e una borsa Gladstone dal nome dello stilista, dal contenuto più vario, compresa una cassetta per denaro, ahimè, vuota. Un passato remoto? No. Nel 1924 i coniugi Fitzgerald salparono verso l'Europa con 17 bauli e svariati altri colli. Nel 1958 Truman Capote sbarcò a Rizza di Atene con 21 tra valigie, zaini e borse varie. La valigia è una casa mobile in cui viene miniaturizzato il mondo del viaggiatore. Tutta la proprietà di Stendhal, dice Leon Blum, si riduceva a quel che si può pigiare in 2 bauli e portare con sé in giro per il mondo. Eppure, malgrado lo scarso spazio, lo scrittore non tralasciava uno sfarzoso servizio da toilette per abbagliare i compagni di viaggio. Gli amici erano impressionati dalle ridotte dimensioni della borsa da weekend di Morin. Sembrava un astuccio di pillole per un duello. Era leggera e funzionale come la valigia scrittoio con cui lavorava sull'Orient Express. Le valigie possono essere piene di sorprese. Dopo aver risposto al doganiere che gli chiedeva cosa avesse da dichiarare la famosa frase «Niente, tranne il mio genio», Wilde inseguì il facchino che stava malmenando i suoi numerosi bagagli. L'incauto non sapeva che in quelle valigie c'era un enorme ombrello giapponese, ogni serie di abiti, ma soprattutto il costume settecentesco con cui l'esteta avrebbe stupito gli americani. Uno stupore destinato a rinnovarsi all'arrivo di Marcel Duchamp in fuga dai nazisti con la sua Boîte en valise, un museo portatile in cui aveva condensato in 69 minute riproduzioni tutta la sua opera. Ancora più bizzarro, l'austero Graham Greene metteva sempre in valigia il suo portafortuna, un bell'orsacchiotto. Altre erano le preoccupazioni di Arthur Rimbaud, in fuga da se stesso. Erano pesanti la valigia di cuoio, gli stock di carte geografiche, i manuali del falegname e del carpentiere, la documentazione sul traffico d'armi con cui era passato dall'Egitto ad Aden fino all'Harar. Vestiti Congo zanzariera, si leggeva sull'etichetta del baule da viaggio di André Gide. Dentro, ben piegati, 10 vestiti di tela bianca, una giacca da sera e una pesante zanzariera. Pur ricorrendo a portatori indigeni, Gide condannava vigorosamente il colonialismo. Era come viaggiare con Greta Garbo, osservò un compagno di Bruce Chatwin che, come Gide, adibiva vari portatori al trasporto dei bagagli. Non voleva infatti rinunciare alle buone letture né agli indispensabili pigiami di seta. Il suo modello, Robert Byron, si era invano limitato a una modesta cassa nera. I suoi amici avevano stipato la loro sambin grigia con un gigantesco baule giallo e ogni sorta di oggetti. Jean Cocteau era partito per il suo giro del mondo in 80 giorni con solo 2 valigie. Non aveva però rinunciato al suo profumo personale, Le Miracle, una misteriosa ricetta dell'imperatrice Eugenia. Prima di partire, Evelyn Vogue faceva incetta di pennini e di carta da scrivere. Il vestiario lo preoccupava meno, convinto com'era che ovunque avrebbe trovato un cinese pronto a copiargli l'abito. Ricordatevi, comprando una valigia, che durante un lungo viaggio ci sarà sempre un momento in cui sarete costretti a portarla voi stessi, ammoniva Paul Morin. Ma l'artigianato del lusso stava ormai superando le pesanti valigie di cuoio di Russia. Valigie Vuitton, dei passeggeri diversi dagli altri, osservava Simenon, che, come Hemingway, era un grande estimatore della celebre casa, in grado di fabbricare valigie eleganti, leggere e resistenti. Nessuno però era all'altezza del viaggiatore del secolo, Paul Morin, che si augurava: «Vorrei che dopo la mia morte si facesse della mia pelle una valigia». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuseppe Scaraffia dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Gli episodi di guerriglia urbana che si sono svolti nei giorni scorsi a Milano hanno evidenziato la difficile convivenza tra etnie diverse e la disperazione, il senso di abbandono dei pochi italiani rimasti in via Padova. Ma come sottolinea Angelo Panebianco in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, non è facile combattere gli immigrati clandestini quando una buona parte dell'opinione pubblica si mostra fin troppo indulgente nei loro confronti. Lo scontro interetnico di via Padova a Milano ha portato nuove sofferenze a due categorie di persone del tutto incolpevoli: i vecchi abitanti della zona e gli immigrati che vorrebbero lavorare in pace. Gli italiani di via Padova, esasperati e impossibilitati ad andarsene, anche probabilmente in molti casi a causa del deprezzamento subito dai loro alloggi, denunciano le condizioni di degrado e la mancanza di sicurezza. Ma anche gli immigrati che lavorano hanno la loro pesante dose di disagi. Non sono presumibilmente leghisti quegli immigrati che a Gianni Santucci dicevano: «A distruggere le vetrine c'erano troppe facce che vedo in giro a non fare niente tutto il giorno», oppure «devono prenderli e mandarli a casa». Ci sono in gioco due questioni difficili da gestire. La prima riguarda la clandestinità, la frequente connessione con attività criminali, nonché il ruolo di primo piano che i clandestini svolgono sempre nelle rivolte urbane. La seconda riguarda la formazione di ghetti multietnici all'interno delle città. Come ha scritto Isabella Bossi Fedrigotti, ciò che è successo in via Padova può accadere in altri quartieri di Milano e in tante altre città. Combattere l'immigrazione clandestina è difficilissimo, ma lo è ancora di più se tanti operatori, religiosi e settori di opinione pubblica mostrano un'indulgenza che sfiora la complicità verso il fenomeno. Com'è fin qui accaduto? Che senso ha, in nome di una sciatta e del tutto ideologica difesa degli ultimi, disinteressarsi delle gravissime conseguenze che la clandestinità porta con sé e che sono destinate a pesare sia sugli italiani sia sugli immigrati regolari? Le probabilità di scontri etnici, quantomeno, diminuiscono se la clandestinità viene arginata e i facinorosi allontanati, e migliora per tutti la vivibilità dei quartieri. La seconda questione riguarda la formazione di ghetti multietnici. È un problema ancor più difficile da risolvere di quello della clandestinità, a causa del fatto che i ghetti si formano quasi sempre in modo spontaneo, seguendo dinamiche che sono proprie del mercato e degli alloggi. Il ministro degli Interni, Roberto Maroni, nella sua intervista al Corriere, ha detto cose responsabili e condivisibili, ma ha forse sopravvalutato la possibilità di impedire, per il futuro, eccessi di concentrazioni etniche nelle aree urbane. I ghetti si formano perché l'afflusso di immigrati spinge le persone che temono un deprezzamento eccessivo della loro proprietà a vendere. E quando il deprezzamento è compiuto, il quartiere si riempie di immigrati poveri. È difficile bloccare questi processi. In un bel film che circola in questi giorni nelle sale, An Education, due allegri mascalzoni sbarcano il lunario prendendo in affitto appartamenti in quartieri di soli bianchi e poi subaffittandoli a famiglie di colore. Le vecchine del quartiere si spaventano, svendono di corsa case e mobilio e i due mascalzoni arraffano tutto l'arraffabile. Forse consistenti sostegni economici alle persone che, a causa del flusso immigratorio, vengono deprezzate proprietà ed esercizi commerciali, servirebbero di più che non tentativi di pianificazione nella distribuzione urbana dei vari gruppi etnici. Alleviando il danno, ciò forse contribuirebbe anche a ridurre il rancore verso gli immigrati. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco, Come si difende un quartiere, dal Corriere della Sera del 16 febbraio.